Sì, è molto importante per noi farlo e dobbiamo davvero non essere indifferenti a quello che continua a succedere nel Mar Mediterraneo, tra l'altro in piena violazione del diritto internazionale del mare, che dice che bisogna soccorrere le persone in pericolo e portarle nel porto più sicuro, più vicino. Quindi quello che è avvenuto è una trasgressione non solo dei diritti umani, ma del diritto internazionale. E non è soltanto avvenuto nel 2013, ma anche nel 2015, 16, fino a oggi. E davvero si pensa che siano almeno 300.000 le persone morte nel mare, di cui 3.500 bambini. Quindi un bambino al giorno, un adolescente al giorno che ha perso la vita. E noi dobbiamo guardare soprattutto alle responsabilità delle istituzioni, non solo a quelle degli scafisti che fanno delle cose terribili, ma anche le istituzioni, l'Unione Europea, le Nazioni Unite, e chiedere una regolamentazione non in senso di mettere barriere, ma di aprire veramente, che i confini non siano più muri, ma siano soglie, perché davvero ce l'abbiamo il diritto, no? Tutti hanno il diritto di poter cercare un'altra vita. Le persone che sono morte cercavano una vita migliore, fuggivano da povertà, fuggivano da guerre, da massacri, e hanno trovato la morte in quel luogo in cui cercavano invece di poter cominciare una nuova vita. E questo credo che sia una responsabilità di tutti noi. Abbiamo finito oggi la conferenza pensando alle parole di Gramsci dell'odio verso gli indifferenti. Io credo che le istituzioni debbano ricordare quelle parole, noi tutti individualmente e collettivamente. Nel nostro piccolo cerchiamo di sostenere questo, è veramente una cosa piccolissima, ma anche non dimenticare e far sì che la memoria sia una denuncia, credo che sia un piccolissimo contributo che possiamo fare.